Questo è un brano consigliato da Runtime Radio. Ma quindi adesso che i tassi di interesse sono aumentati, il nostro mutuo quanto aumenta? Certo che queste sono domande importanti, però in realtà stavo a riflettere pure sul fatto che se l'ossigeno aiuta le persone a vivere, ai fantasmi, a vivere, che gli fa? Nel buio della notte ascolto un respiro, i fantasmi del passato mi parlano dal muro, ma io non rimane invisibile potente, lo so che non respiro e fa tutto differente. I fantasmi mi parlano, mi dicono storie di giorni passati, di vittorie e di glorie, e lo so che respiro mi rende trasparenti e io guardo avanti ad orizzonti emergenti. Sento la sua forza, mi libera da fantasmi, mi guida nella corsa. Respiro l'ossigeno, sento la sua pace, mi libera da fantasmi e io mi sento audace. L'ossigeno, l'ossigeno, scaccia via il dolore, verità nascosta e un battito del cuore. Macella e fantasmi, li spazza via nel vento, in questa melodia trova il tuo momento. L'ossigeno, macella e fantasmi, mi dissolve. Della notte sotto cieli stellati, respiro l'aria pura, i fantasmi sono scappati, l'ossigeno li batte, li fa luce brillante, avanzo deciso col mio cuore spezzante. Nel buio si fa strada alla luce del mattino, l'ossigeno ha la forza e il giorno è più vicino, tra le ombre danzanti, segreti e oscurità, respiro profondo, addio le falsità. Cosa succederà tra 18 mesi? Salvateli tutti! A stronzo! Pop Corner! E carissimi amici di Runtime Radio, benvenuti qui ancora una volta su runtimeradio.it. Dopo le ore 21 torna Pop Corner dopo una lunga pausa dovuta da fattori di estinzione di massa, non lo so cosa sto dicendo. Marco Gualdi torna dopo una lunga malattia, direi proprio dopo una lunga malattia, è il caso di dirlo, è quasi caso. Lunga malattia che ancora adesso quasi cacca. No vabbè, questa è una malattia che ci spinge a non fare nulla fondamentalmente, sì, ci spinge È una malattia fatta di cose, hai capito, cioè, che si strinseca con la voglia di non fan cazzo, saprei, cioè, non saprei spiegarla meglio. Esatto però oggi è un giorno di festa perché oggi siamo tutti in cristoteca e quindi insomma ne diremo delle belle, ma ne sentiremo anche delle belle, anzi forse qualche d'una secondo me alla fine ti rimane in testa quelle cose brutte che tu poi fai a cazzotti con te stesso perché la canticchi e ti picchi perché la stai canticchiando, insomma. Walter Sbano, allora buonasera, bentrovati. Intanto io, per non sbagliare, visto il tenore solenne della puntata, ho portato il bestemmiometro, che però funziona solo per te, e quello è il problema. L'importante è questo, fidati. Poi insomma, diciamo, ho portato anche la giustificazione, perché è morta nonna, non ha potuto studiare. Ah, l'ha potuto studiare. Hai mangiato al cane, come al solito. Sì, ho fatto mangiare la nonna al cane. Tra l'altro, con Puccio stavamo facendo una riflessione prepuntata, che poi... Salutiamo prima? Carmine Puccio Console, incredibile. Sono quello con cui stavamo facendo la riflessione prima della puntata. L'uomo più ignorato d'Italia, attenzione. Esatto. L'uomo di cui la gente si dimentica di presentare, hai ragione. Vabbè ragazzi, sapete insomma che sarà un periodo un po' sbislacco, quindi insomma... No, ma io lo so che mi stai dando per morto prima dell'intervento alla cistifelia, ti stai abituando a quando non ci sarò più. Beh, io sai, io sfrego le mani sulla scheda video, quindi... perché tu ce l'hai scritta. Sì, ci ho messo l'etichetta. Okay. Sento per Simone Pizzi. Ok, perfetto. Ma cioè, lui non mette l'etichetta sugli organi, lo mette direttamente sui PC e sulle cose. Aspetta, Walter, che Marco lo sai come ha fatto, no? Lui deve parlare sopra tutti. Non c'è disciplina. No, Simone, cioè Marco, non posso mettere l'etichetta sugli organi. Ci ho provato, non so. Però sui PC lo può fare. Sì, sul PC riesco. Okay. Via di Simo. Ok, adesso fate parlare pure Walter. No, io volevo solo fare una domanda: se l'intervento alla cistifelia di Puccio sarà una chimera come quello all'appendice di Marco Gualdi. In effetti. No, Marco Gualdi lo tengono a flebo di acqua. In realtà ho scoperto che l'opzione era il trapianto del resto del corpo. L'appendice era l'unica parte sana. Ma guarda, forse ne avresti anche guadagnato. Sì, probabilmente. Ti poteva dire culo. Potevano salvare l'appendice se buttare tutto il resto. Magari dicevano: com'è questa appendice bianca e tutto il resto è nero? Ma questo è razzismo. Potremmo raccontare di quella persona che è diventata improvvisamente vittima di razzismo. No, ne parliamo, okay. certo. Non adesso, però. No. Posso citare adagio: Gullit è tornato in città? No, non era Gullit, era UEA. Era Gullit è tornato in città, Baresi è di nuovo papà. Era UEA. È tornato UEA, è tornato UEA e Baresi è di nuovo papà. Mi ricordavo fossero... Vabbè che in realtà sì, Baresi ha giocato anche con UEA, ha giocato prima con Gullit, mi ricordavo. Vabbè, comunque... Diciamo che questo è del razzismo perché tu confondi le persone di colore. No, ma perché poi Gullit non daltonico, è... Daltonico. Ti assicuro che Gullit non è abbastanza nero, quindi era più probabile che era UEA. E poi non suona bene, è tornato Gullit. Era UEA, me lo ricordo benissimo perché all'epoca... Okay. Era un canto ricorrente, insomma. No, vabbè, ok, perfetto. Vabbè. Comunque, il senso. L'importante è aver colto il senso solenne anche di questa cosa. Allo stadio, prima del primo brano che voglio farvi sentire per portare all'atmosfera della festa, entriamo in clima con una riflessione che stavo facendo con Puccio. Perché l'altro giorno mi citofonano, anzi, durante la giornata ho ricevuto due citofonate. Una è la solita signora che viene e mi chiede di fare riflessioni sull'umanità e se voglio fare una conversazione con lei. Ho detto: guardi, io non voglio fare una conversazione con lei, la ringrazio. Non Pizzi, mi costringi. Scusami, Pizzi, ma tu portala dentro, mettila davanti al microfono e facci conversazione. Lo sai. Il problema è che poi c'è la paura che ci convince a tutti. Il problema. Comunque, vabbè, gli ho detto, poi insisteva, gli ho detto: non mi costringa a essere scortese, non le voglio attaccare il citofono in faccia, comunque non mi interessa. E il pomeriggio è arrivato Muzumbu, che è Don Muzumbu, naturalmente. Don Muzumbu. Don Wea, esatto. Padre Wea è venuto. stanno per farci l'indeterminato al libero dopo questa puntata, voglio che lo sappiate. È arrivato Don Wea, anzi padre Wea, e il catechismo è di nuovo papà, insomma. Comunque un indeterminato non si nega neppure da libero, io te lo dico, nel caso sono abbastanza mignotta, io ve lo dico. No, ma tanto ti scegli un nome d'arte. Beh, se pagano io va bene, sì, tutto. Sì. Cioè. Sono disposto a parlare bene pure di Salvini. Appunto, cioè, Salvini è un meglio amico mio proprio. Cioè, comunque, firmerò Daniele Capezzone qualora fosse. No, Daniele Capezzolone, perché sennò poi magari schifo. Vabbè, comunque ci telefonato padre Wea. Per la benedizione. No, guardi, non mi interessa. Ah, va bene. Ma Michela c'è, ti ha chiesto? No? Che hai detto? Ma Michela c'è, perché. No, lo sanno che Michela. Michela non c'è, lui lo fa. Dice, ma è per la benedizione. Gli ho detto, guardi, grazie, non siamo credenti. Pensavo fosse venita là, invece no, però no. Perché tu lo sai, al prete lo ha triggerato. Che cosa? Lo ha triggerato. No, perché il prete lui ti chiede se tu vuoi la benedizione, tu gli dici no, però lui ci dofona all'arte, quindi qualcuno gli aprirà sempre al prete, no? Quindi il prete si fa tutto il giro da sopra a sotto e Celentigna mi suona proprio che direttamente. Non hai aperto nessuno. Può essere, guarda, perché secondo me ci ha messo troppo poco. Comunque mi suona proprio direttamente, apro. E insomma, non c'era bisogno di essere qualificato, c'era per la benedizione. Guardi, io come le ho detto prima al citofono, non sono credente. E vabbè, quindi se n'è andato un po'. Però poi alla fine, avendo visto che era nero, mi è dispiaciuto, perché secondo me poi comunque loro sta riflessione la fanno. Cioè loro, secondo me, dentro di loro lo dicono, cioè, ma secondo me non mi ha fatto entrare perché sono nero. Secondo me lui ha fatto. Allora, in questi casi, secondo me, Don Wea all'affermazione, ma guardi, mi dispiace, non sono credente, ti vorrebbe rispondere che c'entra, nemmeno io, ma pentozzo de pane. Esatto. Tornando al discorso di prima, il discorso a tempo indeterminato. Sì, no, ma indeterminato, esatto. Praticamente statale, ragazzi, quindi, cioè, senza considerare il fatto che io sono quelli che è stato da padre milingue quando ero ragazzino, quindi insomma. Tra l'altro, ragazzi, dice il nostro Mister Zero, salutiamo gli amici in chat, in particolare. Ah, vai, vai. Che gente reagisce, dice: per l'indeterminato faccio l'amico pure con Travaglio, che non è facile. Travaglio ci posso arrivare anch'io, ve lo dico subito. Scanzi no. Scanzi è complicato, beh, ragazzi, ma secondo me pure Peter Gomez proprio facile facile andavesse. Comunque approfitto per fare un intervento a gamba tesa, perché io qui a Putignano abbiamo un parroco di colore come Don Wea, appunto, che pare abbia detto un suo collega che è abbastanza attivo sui social, nonostante sia prete è anche un amico di famiglia, che anche lui a volte non sa se non gli aprono perché è nero o perché la gente non è credente. Io gli ho detto: Beppe, di pure al tuo collega che io non gli ho aperto perché è un prete e non l'avrei aperto neanche a te, esatto, se fossi venuto a benedirmi in casa. Esatto, esatto. Vabbè, però loro non lo sanno. Dormi tranquillo. Secondo me la riflessione, dai, cioè, allora, secondo me un po' ci pensano, dai, è normale che ci pensano, sì, un po' più, no. Però io mi ricordo che sono stato a un funerale dove c'era un padre, un prete nero che faceva questo funerale. È stato un delirio, perché non si capiva un cazzo, prima di tutto, non voglio essere veramente, ma poi, cioè, secondo me, preso dal potere del fatto di poter fare l'omelia, come si dice quando a un certo punto parla a ruota libera al prete, no? L'omelia. Ha cominciato l'omelia. Veramente ha fatto Final Fantasy, ha fatto proprio. Guarda, fino a che non si rialza il morto va tutto bene, quindi infatti va bene. Ma a proposito di morti che si rialzano, guardi, che dici? Non lo so, che dico di. Eccoci qui, eccoci qua, muoviti qui, muoviti là. Eccoci qui, eccoci qua, muoviti qui, muoviti là. Sulle mani! Eccoci qui, eccoci qua, muoviti qui, muoviti là. Eccoci qui. Aspetta, il meglio deve venire. Muoviti qui, muoviti là. Oi là, salut, salut, siamo qui, tu e io, però adesso dobbiamo crescere, sorellina. Ehi là, dobbiamo con coraggio spenderci. per te Gesù, proprio adesso sceglimi. Presto, presto, parliamo di Gesù. Che ha detto? Parliamo di Gesù. Parliamo, sì, parliamone, è importante parlare di Gesù. Quando ti ama e sai ti chiama. Presto, presto, parliamo di Gesù. Annaggia a Gesù. Annaggia, sì, parliamo, è importante parlare di Gesù. Quando ti ama e sai ti chiama. Dai su. Io vorrei far notare una cosa importante, che lei è quella della canzone originale. Cioè, nel senso, non è che questa è solo la cover fatta dal prete, ma proprio lei che canta, è proprio quella della canzone originale. Conoscete la canzone? Sì, sì. La comunità di lei non era rumena, eh sì, lei è rumena, infatti. Però sta in Italia come tutti i rumeni. No. Questa libero, questa puntata le pecche. Ha già il pezzo per la puntata per il prossimo, per la prossima edizione libera. C'è qualcuno che sta dicendo cosa è successo a Runtime Radio. Due cose volevo far notare. Al di là del fatto che l'inizio di questa canzone c'ha più allusioni della sigla di Polo. La sorella, la sorellina, bisogna crescere, sorellina, no, com'era? E comunque, no, invece sulla chat di Atlanta Radio Laura ha resumato Steven per commentare questo brano. E se non conoscete Steven è un problema vostro. Steven era quelli là, non era quello marito e moglie che facevano i preti, cioè facevano le trasmissioni. No, ma no, Steven, vabbè, è un cane, era un canetto che è diventato un meme famoso perché praticamente non aveva l'arcata dentale inferiore, era poverino, però era simpaticissimo e c'era la cosa, ma come si chiama Steven, perché non lo poteva pronunciare. Ah, ok, no, non conoscevo. Comunque, lei è lei, proprio lei. Io ho visto pure il video, è proprio lei. E poi c'è scritto pure nei grilli. Proprio io? No, lei come si chiama? Tra l'altro ai Duci, credo. Sì, esatto. Tra l'altro dedichiamo questa puntata e in parte anche a Deborah, che ci ha suggerito il tema, che poi oggi fa pure il compleanno, quindi tanti auguri Deborah. È sempre colpa sua, non gli è bastata. No, è sempre colpa sua, sì, perché stavamo commentando l'ultimo video di Mark The Hammer, che ha fatto proprio un video su... Sì, Mark The Hammer, grandissimo, seguite il canale su YouTube perché ragazzi... È forte, sì. Bravo. Tra l'altro c'era proprio questo pezzo della Cristoteca, tra l'altro c'è il padre Domingo del Rinascimento in Portogallo che ha fatto il jet set, praticamente ha fatto il DJ set, sì, techno, prima dell'arrivo del Papa, esatto, insomma, fantastico. Ce l'ho però, vabbè, troppo... Padre Domingo del Rinascimento è quello che si calzava Stefania Nobile? Può darsi, sì. E anche la mamma, e anche la mamma all'occorrenza, sì. Sì. Per tenerle buone. Con questa bellissima immagine che vi accompagnerà, vi risparmierà il sonno per diversi giorni. Inizia con un ictus, guarda, secco. Sì. Dio mio. Vabbè, quindi Marco da te ci è venuto il prezzo. Comunque veramente... Se ci è venuto non mi ha trovato, per cui tutto molto bello. Cioè, l'avviso lo mise? Mise l'avviso? Mandò, prima. Non è che ti ha lasciato avviso, guarda, io sono passato. No, però no. Non mai aperto perché sono nero. Perché sono nero, esatto. Sicuramente. Cioè, avrei potuto lasciare direttamente un pezzo di carta sul cancello. Se sei nero è inutile che suoni. Però sarebbe stato un po' troppo, insomma, cioè, dargli un po' di speranza. Pensa a mettere la foto sulla porta e la scritta aiutiamolo a casa sua. Facciamolo benedire a casa sua. Ah, intanto salutiamo pure Lara Padawan, che vedo che è in chat, Mister Zero, insomma tutti quelli che stanno partecipando, Michele ho visto, quindi, guarda, insomma. Che a fine episodio diventeremo il podcast ufficiale di Fratelli d'Italia. Secondo me di Radio Maria, perché cioè, secondo me metti Cristo e il razzismo insieme, secondo me succede un po', non lo so, secondo me Giorgetta ci chiama, insomma. Giorgetta. Sì. Ma ne volete sentire un'altra? Ma presto, dai. E due, guarda. No, vabbè. Fra un po'. Allora, raccontaci la storia dell'uomo che subisce il razzismo per motivi sbagliati. Prendo la notizia, perché adesso potrei andare a memoria, ma non, sì. Allora, non so il posto dove è avvenuto, perché mi sono rifiutato. A Roma, mi sa che è romano lui. Può darsi, non so, mi sono rifiutato di leggere l'articolo perché era troppo stupido. Era troppo stupido, non l'articolo, la situazione. Allora, però qua tu devi essere preparato quando stai in radio. No, insomma. Vabbè, cioè, c'è questo tizio, chiamiamolo tizio perché mi sembra giusto chiamarlo in questo modo, che ha deciso di tatuarsi tutto il viso tutti nero, cioè si è fatto tutto quanto nero. Non è che si è disegnato. Non solo il viso, è pure il collo, hai visto? Anche cioè un braccio, sì, sì. Forse fuori sono finiti i soldi, praticamente. Voleva far Ringo, non si capisce. Comunque, non so, in ogni caso, si è tatuato tutta la faccia nera. E adesso, praticamente, è uscito questo. Questo articolo l'ho preso da msn.com, che è bellissimo, che è proprio la fucina della merda, sì, quindi sì, è bellissimo. Sì, poi io comunque non la capisco, cioè, ma che è una follia comunque, cioè, mo, a prescindere da tutto, no? Vabbè, continua la storia. Perché quello ha cominciato a farsi la K47. Secondo me avevano sbagliato un paio di tatuaggi. Allora ha fatto la K47, ma sembrava una lumaca. Poi si è fatto allora, dice, vabbè, sembravano dei neri. Allora, vitturiamo tutto così. Dei tumori sulla pelle. Sì, la versione del cancelletto. Hanno cancellato tutto. Cioè, poi, a volte che è nero, cominciamo a fare col bianco sopra, però non gli viene tanto bene. Però che è successo? Che mentre state cercando di risbiancarlo, adesso la gente lo insulta e dipinge di razzisti. Esatto. Cioè, lui dice che da quando si è fatto tutta la faccia nera, tutta la testa nera, poi in realtà completamente, pure il collo, le spalle, e dice che praticamente lo, insomma, subisce razzismo. Cioè, questa è una doppia idiozia, se tu ci pensi. Che no? Io ripeto, come ho detto, come ho commentato, se te danno del coglione non è razzismo. Quindi, che poi se tu lo vedi, se vede che non è un nero. No. Cioè, se vede, però secondo me non lo insultano perché è nero, lo insultano perché è cioè, lo insultano anche i neri, esatto, cioè, anzi nero ancora di più, che sei invidioso, esatto. Scusa, perché d'altronde Big Bamboo, ricordiamo sempre, insomma, però non è facendoti la faccia nera che succedono queste cose, insomma, ricordiamolo. Non ti cresce, no. Vorremmo ricordare che l'unico uomo che ha potuto farsi la faccia nera e uscirne a testa alta è Kirk Lazarus, alias Robert Downey Jr. in Tropic Thunder. A proposito di Kirk, anche questa notte William Shatner ha postato su Twitter. Quindi... No, dove? Aspetta, me lo so perso. Sempre, lui posta quasi tutti perché i giorni. Lui posta su Twitter, non su X. Esattamente cosa posta? Cioè, spiegatemi. Cose, dice cose. Sono vivo. L'ultimo mi sa che era un messaggio di commemorazione, evidentemente deve essere stata la ricorrenza della morte di Nimoy, quindi cose del genere. E poi lui in realtà fa le ricorrenze per ricordare a se stesso che è ancora vivo e sta sopravvivendo un po' a tutti. Esatto. È quello che, esatto. Che si fa. Ma lui guarda che fa i post su X, io sono abituato di Twitter, quindi dico Twitter, solo per dire alla gente che è vivo, cioè secondo me, ma anche a se stesso. Sì. Cioè lui a un certo punto durante la giornata vede Twitter, vede il suo post, dice, ah, ma allora sono ancora vivo, capito? Così fa, insomma, secondo me. Vediamo se scrivo, sono vivo. Sono lui ha programmato i post automatici da qua qualche anno. Ah, può essere, per trollarci a tutti. Può essere, può essere. In realtà sta sotto spirito da qualche parte. Beh, sì, su quella base segreta della flotta stellare lì. Sì. Quella, sai, grande ultima stagione di Star Trek Picard. Sbano, c'hai qualche cosa da dire sui preti? La domanda è mal posta, nel senso che ce ne avrei tante da dire, ma nessuna. Nessuna è adeguata, dici. È delle cose non troppo blasfemanti? No, vabbè, facevo la riflessione, volevo farmi la riflessione del fatto, no, che ormai i sacerdoti, ma anche le suore, cioè, anche qui non è una forma di razzismo, è una presa di... È una sono presa tutti di neri. Perlomeno sono tutti quanti, diciamo, originari di parti del mondo povere, infatti, mettiamola così. C'è una crisi di vocazione, però io come dico sempre, quando c'è poca richiesta di lavoro in Italia, bisogna alzare i prezzi, quindi... Beh, comunque è vero anche qui a Monterotondo, se vedete tra i preti... in generale sono o sudamericani o sono africani in generale, che ancora l'unici che ci cascano, ricordo, cioè, anche filippini, molti sono filippini, attenzione che quelli ci credono veramente, i fratelli filippini, grandi centrocampisti da Lazio, ricordiamo, mamma mia. Quasi come i fratelli Inzaghi, meno cascatori, però no, i fratelli filippini, ragazzi, non è passato tanto tempo, ma sembra archeologia del calcio quasi. Vabbè, perché comunque non è, diciamo, non hanno lasciato il segno come i fratelli Baresi o come i fratelli Inzaghi o altri. Vabbè, comunque. Io mi sono sempre domandato, per parlare di calcio, questo non c'entra niente, poi chiudiamo. Ma sì. Il Baggio che è venuto a giocare nella Lazio era il fratello di Baggio? Tino Baggio. Dino Baggio. No, non erano parenti. C'erano solo lo stesso cognome. Sì, sono un caso di omonimia. Che poi Dino Baggio per un periodo giocò anche nella Juve insieme a Roberto Baggio, no? Sì, per un po'. No, non spiegare, pare che fosse già andato all'Inter. Poi ci fu quella storia. No, credo di no. Vabbè, non lo so, però... Comunque non era il fratello. Una carriera con un acquisto, cioè mi ricordo questa cosa che fu al centro di un acquisto giudicato, diciamo così, poco legale, sta cosa gli ha poi tagliato le gambe alla carriera. però peccato, perché era un fenomeno, Lui viene da quel periodo in cui tutti gli scarpari venivano lanciati dalla Juventus, lui, Torricelli, Turricelli, no, Moreno, come si chiama? Ho capito, sì, sì. Paiano, ho capito che dici, però non mi viene. Giuliano. No, no, Giuliano, ragazzi, era un oriundo, no, non era Giuliano, era italiano. Però vabbè, era praticamente Montero. Montero, bravo, una cooperativa di fabbri bergamaschi che fondamentalmente pensati al calcio. Va bene, io comunque vi interrompo, ragazzi, perché è arrivato il momento. È arrivato il momento, secondo me, con la hit delle hit, secondo me. Cioè, questa è quella che non potevamo non mettere, insomma, che alla fine insomma, dobbiamo ringraziare l'artista che l'ha creato, però in particolare anche l'artista che ha recuperato, rimasterizzato, insomma, tutto questo. Sì, però Simone, lasciamo un sospeso prima che la fai partire, perché Michela dice qualche mese fa è venuta in visita qui la famiglia del prete cileno della parrocchia di Santa Maria. Hanno senso la moglie e il figlio. Non lo so, esatto, penso anch'io. Hanno fatto il panico. Ora noi vogliamo sapere che si intende per famiglia e che panico hanno fatto. Però ovviamente dopo. La famiglia vuole i figli, la moglie. Esatto, quello che. Oh, l'ha appena detto Puccio. Pizzi, ci sei? No, non l'ho sentito. Vai, vai, facci sentire il brano. Poi magari Michela ci lascia un contributo scritto, epistolare, visto che insomma ha qualche problemino di voce. Vai, vai. Guai a te, Christian Ayrte, guai a te! Questo è la hit delle hit, ragazzi. Quella lì. Gesù. Sai, cavalieri dello zodiaco. No, ma Gesù, ma no! Gesù. Mi viene in mente che Titan era un cartone animato degli anni 80, no? Di anni 80. Però, se uno cambia il nome anziché Titan, Gesù, che è vero. Gesù è vero, invece Titan era un cartone animato ed era un personaggio che era un robot. Mi viene in mente Gesù. Per noi tu sei davvero grande. Per noi tu sei davvero forte. Evviva Gesù Cristo. Gesù, per noi tu sei davvero. Viva Gesù Cristo! Corona di spine! Allora, scusate ragazzi, voi sapete che in quanto filologo ufficiale di Rantan Radio devo fare notare un parallelo, no? Perché va bene, non siamo un trio allerta e pieni di brio, perché potremmo parlare comunque della Santissima Trinità, ok? Ma arriva già il nemico, scappa? Demonio. Arriva già il nemico, scappa. Devi affrontare, non devi scappare. Ah, il nemico scappa. Arriva il nemico, scatta. Beh, non è che si capisce bene. Ah, no, scatta. Il nemico schiatta. Pensando come potrebbe lanciare l'energia solare attraverso le stimmate, mettendo un ciabattissimo. Non parliamo di stimmate, che dopo c'è un pezzo importante. Dopo c'è un pezzo significativo, da sto punto di vista. No, scusa, mi hai ricordato una prima pagina di un cronaca vera di tantissimi anni fa. Comunque, ragazzi, salutiamo di Padre Pio. Salutiamo sorella Beauty e sorella Reiga a questo punto. Magari. Le sorelle, sì. Tra l'altro, due cose da dire. La prima cosa, e poi voglio sentire, insomma, Matteo Montesi ci manca perché in realtà poi dopo, quando lui ha capito, ci manca il vero Matteo, esatto, quando lui ha capito di essere un fenomeno dal punto di vista mediatico, poi dopo non era più Matteo Montesi che abbiamo conosciuto noi, che è poi tra l'altro la parte più triste di lui, perché lui comunque in quel periodo non stava proprio bene da testa, cioè, e si è capito, e poi l'ha anche raccontato che veniva fuori dalla separazione, insomma, una storia bruttissima. Ma voi vi ricordate che lui faceva sti deliri su Gesù e i rettiliani, ma poi andava giù per i campi, praticamente andava per i posti, insomma, i posti di scopaggio, ricordiamo, di scopaggio, a raccogliere i preservativi con le mani, raga, cioè lui era proprio, stava fuori da testa, e ha fatto sta canzone su Titan, perché secondo me Titan, cioè la canzone di Titan, cioè, ma non soltanto il cartone animato di per sé, è comunque una cosa che rimane, è rimasta impressa in tanti di noi, cioè io che non sono un super appassionato, quella non me lo perdevo mai. Poi tra l'altro me lo ricordo e me lo vedevo con mio padre, insomma, ed erano fighi i personaggi, era figa la storia, era anche un po' particolare ed era anche molto ironico, no? Ma su di che cosa parli? Perché ho avuto un momento di distrazione di massa della sigla di Titan 3. Ah, okay. E del cartone animato, e del cartone animato, no? Di Titan 3. Ah, vabbè, sì, però se tu poi vai ad approfondire le tematiche ti accorgi che Aran Bench era un figlio della mignotta, cioè nel senso aveva era dalla parte del torto, come possiamo dire, alla fine. Sì, te lo dicono nel loop, te lo dico, te lo fanno capire nell'ultimo episodio cosa ho fatto, cosa ho fatto. No, a parte quello, ma è proprio io mi ricordo questa cosa, la scagnozza di Don Zauker che dice noi ci saremmo pure accontentati, quello ci ha inseguito e che cazzo dovevamo fare, abbiamo reagito. Sì, esatto, cioè, era lui che era proprio assetato di vendetta. Aran Bench era assetato di vendetta, quelli si stavano a fare i cazzi loro, cioè secondo me date Beauty e Reika anche di altro, però come biasimarlo tutto sommato, bisogna anche dire. Esatto. E vabbè, quindi insomma, però a parte il cazzo animato che ci è piaciuto tanto, insomma, Matteo Montesi a me, Marco e Michela ci ha fatto passare veramente ore e ore di involontario intrattenimento, perché poi secondo me lui non si rendeva veramente conto. E ovviamente Christian Ice, che insomma lui lo dice Christian Airte, attento a te Christian Airte, perché lo sapevamo. Comunque, ragazzi, qui c'è da raccontare quindi a questo punto la storia della famiglia, che poi non si è, Michela non ha chiarito famiglia in che senso, comunque era vita, è arrivata la famiglia del cileno, che ce frega del cileno, noi ci avevamo tutti go. Niente, hanno occupato il Capriccio, che è una nota pasticceria di zona, si sono magnati tutto, che manco a Obelix alle 12 fatiche, e dice hanno lasciato il conto aperto al parroco, credo, di zona, Don Pietro. Ah, dice no, il parroco di un'altra chiesa, quindi insomma così per sfregio, così, capito, che ce frega del cileno, noi ci avevamo Don Pietro go. Che poi è bella la cosa, sono magnati tutto, e poi ci lascia conto chiesa, no, perché sì, ma quale chiesa, quell'altro. ai cappuccini di morte, capito, perché c'è la faida tra le chiese, no, quando fanno anche il derby, no, li morte, sì, lo faranno il campionato. Ma c'è pure da voi sta roba che tra parrocchie diverse fanno, non lo sappiamo, devo dire la verità, non lo sappiamo, ma ci piace, però ci lo sospettiamo, ci piace pensarlo, certo, giusto, il che renderebbe insomma la vita ecclesiastica molto più interessante, più divertente, cioè, esatto, uno ci va in chiesa per vedere chi passa da a quale ve lo racconto io. Io abitavo a Piazza Asti, e a Piazza Asti c'è questa enorme chiesa, proprio un blocco gigantesco di marmo, altissima, sai, fatta, costruita durante il periodo del fascismo, che è la chiesa di San Giovanni. E praticamente questa chiesa sopra, nella parte sopra, c'è il tetto che stava tipo a 50 metri d'altezza, perché ovviamente smettava su tutte le case. Praticamente c'era una sorta di terrazzone enorme, completamente piano, no? E se ne... No, si narrava che lì il prete ci aveva fatto il campo da tennis. Però non c'erano i droni all'epoca, quindi nessuno ha potuto mai verificare. Però siamo sempre rimasti con questa curiosità. Ma io non ci avrei fatto il campo da tennis, ci avrei fatto altre cose più interessanti, come un campo di marijuana, per dire, perché sì, sarebbe stato anche più redditizio. Invece di annacchiare i soldi ai poracci, vendi all'ingrosso. No, ma via. I soldi ai poracci è una cultura, cioè loro l'avrebbero comunque fatto. Però cioè, tu metti, cioè, lascio l'offerta libera e te do uno spinello. Cioè, secondo me, secondo allora, me la chiesa farebbe i soldi, per dire. Avrebbe più senso, cioè ci sono gli estremi dello spaccio, però, ma no, cioè, ma tanto quello che succede sul territorio della chiesa rimane sul territorio della chiesa, lo sappiamo benissimo, insomma, quindi è come Las Vegas, esatto, dice, esatto, è la stessa cosa. Madonna, cioè quello che succede nel Fight Club, scusa, che parlando Simone di chiesa, non mi ricordo, forse ce lo siamo detti in chat, vi ho raccontato di quel wifi che non funzionava in chiesa Putignano ed era colpa di Gesù. Non lo so, no, raccontacela, che non l'ho mai sentita. In pratica, io ho tra i miei clienti privati, cioè un'azienda di Putignano, che un giorno mi ha chiamato, ha detto: senti, guarda, ci hanno chiamato la parrocchia di San Filippo Neri, cioè hanno bisogno di mettere il wifi in chiesa. Io pensavo oratorio, sagrestia. Ho fatto: vabbè, come vi posso aiutare? No, Puccio, è proprio in chiesa. Vabbè, insomma, sono andato entrando avendo paura di bruciare vivo appena ho marcato il portone della chiesa, sono andato, ho preso un po' le misure, gli ho detto dove mettere le antenne del wifi e abbiamo risolto lì. Dopo qualche giorno mi chiama uno dei dipendenti di questa azienda, dice: guarda, ci sono delle zone dove però proprio il segnale non c'è. Poi questa cosa è passata un po' nel dimenticatoio, perché alla fine serviva a collegare delle videocamere wifi e alla fine hanno funzionato e nessuno si è preoccupato più di tanto. Che è successo? L'anno scorso purtroppo è venuta a mancare mia nonna, io sono dovuto entrare in chiesa per il funerale, la chiesa era la stessa, e a un certo punto ho guardato sopra l'altare e mi sono reso conto che non c'era il crocifisso, ma c'era un'enorme statua di metallo, credo di rame, di Gesù, che creava una gabbia di Faraday mostruosa. Stiamo parlando di una stato alta più di 20 metri, completamente di metallo, e quindi facendo questo effetto ovviamente il wifi aveva dei buchi, dei fenomeni di bouncing. Allora, quando siamo usciti, ho preso il cellulare e ho mandato un messaggio al titolare dell'azienda dicendo: ho scoperto perché nella chiesa di San Filippo non funziona il wifi. E lui: ah, bravo, e che cos'è? Gli ho risposto: di al prete che è colpa di Gesù, e gli ho mandato la foto della statua e ho detto: sono andato a vedere, è metallo. Colpa di Gesù, è colpa di Gesù. Io non so se lui l'abbia fatto poi veramente di andare a dire questa cosa al parroco, però. E vabbè, comunque io ce l'ho, c'è una storiella carina, non so dove l'ho raccontata, che quando ero ragazzetto, insomma, ed ero segretario della sezione di San Lorenzo Ardea della sinistra giovanile. Pensavo dell'Azione Cattolica. No. Però allora organizzammo una sorta di comitato dei quartieri con il prete, che era un prete che aveva 164.000 anni, però era uno gagliardo, cioè alla fine tutto sommato ci ispirava anche fiducia. Prete operaio, massa. Era sì, particolare, però lui c'aveva la fissa da tecnologia sto prete, però ovviamente in rapporto alla sua età, insomma, diciamo che era sempre 197-4000 anni, no? E quindi che faceva? Lui praticamente si era comprato un lavalier radiomicrofono, che appena allora era una tecnologia, cioè, nel senso non so quanto l'avrà pagato sto coso. Tanto pagano i fedeli. Esatto, bravo, esatto, bravo. E quindi c'aveva sto amplificatore con sto ricettore, e ovviamente tutto passava ovviamente nelle casse della chiesa, che non so mai state tramite il Patreon della chiesa, cioè tutti il bussolotto lì. Esatto. Che poi, insomma, diciamo, la diffusione acustica delle chiese non sono mai passate per essere. E quindi quando lui parlava con sto lavalier, in realtà non si capiva un cazzo, no? Però noi stavamo a fare questo comitato, ognuno di noi ha fatto il proprio intervento, il prete ha fatto il proprio intervento, poi mentre stava a fare l'intervento un altro amico nostro squilla il telefono in sacrestia, e il prete prende, si alza e va a rispondere, però si è andato a rispondere con tutto il radiomicrofono. Che ha detto, dai. Ma in realtà non ha detto niente di che, no? Però usava dei, come posso dire, delle sì, amore, tesoro, capito? Sì, dimmi tutto, caga. Cioè, e c'è uno nel pubblico, insomma, che stava lì a sentire, che si è subito affrettato per andare a abbassare il volume, perché giustamente il prete stava a fare la telefonata con tutto il radiomicrofono. Insomma, non è che ha detto niente sconcertante, però. Insomma, capito? Cioè, fino a quel momento che cambiava strada, andava nel confessionale, erano cazzi. No, ma poi magari si amore tesoro, e stava a parlare con. No, non lo posso il dire. Bambino con sta... figlio sta a parlare. Non lo posso dire. Non lo volevo dire, ma qualcuno l'ha detto al posto mio. Ma l'abbiamo solo tutti pensato. Però, insomma, devo dire che Sbano, tu a c'hai... papà, che vuoi per compleanno a papà? Allora, raga, scusatemi, perché mi sono triggerato poco. 5-6 racconti fa, perché mi è venuto in mente un progetto. Che? Mi è venuto in mente un progetto. Dai. Quando mi avete parlato del discorso che effettivamente dice sì, aspetta, però questo configura la possibile reato, la fattispecie di reato di spaccio, però lì sei sul territorio del Vaticano, bla bla bla. Allora mi sono immaginato un idroponico. Ragazzi, l'idrocanonica. La cultura idrocanonica. Bello. Beh, marketing puro, eh. Voi capite? Poi così sì che lo vedi Gesù, se le cose me le fai fa bene, te lo faccio vedere io Gesù. Sì, c'hanno pure i prezzi agevolati della corrente, c'hai ragione. Tutto, capito? Tutto. L'acqua la paghiamo noi. L'idrocanonica e Cristoteca sono due nuovi modelli marketing che si possono portare avanti. Sì, perché alla fine combatti le droghe sintetiche delle discoteche con la droga dell'amore di Gesù. Naturale, esatto, con la droga di Gesù. Oh, dal scherzo. La droga di Gesù. L'ha inventata Dio quella, cioè. Gesù è una droga, no? D'altronde, scusa. È un'affermazione che è stata usata, Gesù è una droga. No, ma non solo, giustamente Marco ci fa presente che se la droga esiste anche in natura, l'ha creata Dio. L'ha messa lì. Cioè, voglio dire, quindi insomma alla fine come non approfittarne, esatto, l'oppio l'ha creato, l'ha voluto nostro signore Dio, esatto, poi signore dipende come lo si usa, nostro signore Dio si dimostra quanto Walter sia a suo agio con la terminologia religiosa. Poi si chiama anche Maria, no? Quindi esatto ragazzi, non è un caso esatto. C'era la famosa scritta sul muro di della strada che porta a Montrodondo alla Mentana, che stasera l'hanno cancellato, che c'era meno Gesù più Maria, e quindi questa, ma quelli erano i mariani che non lo so, forse erano i fumiani. Dio ti vuole un macello di bene, questo lo conosco, questo è padre, aspetta, mo te lo dico, padre Maurizio padre Marondo, Ricordiamo che quest'album, perché è un album, c'ha la collaborazione anche con Fiorello. Sì? Sì. Penso una vergogna per Fiorello, vabbè, non come il ballo del qua, con Gesù, però. La gioia assicurata e la vita è tutta fatizzata. Con Gesù la noia se n'è andata ed è sempre tutta una ballata. Diverti di più, ma fallo con Gesù. Divertiti di più, ma fallo con Gesù. Diverti di più, ma fallo con Gesù. Divertiti di più, ma fallo con Gesù. Gesù, moscio non sei più smidollato, lo sei con il peccato che per bacco t'hanno già fregato, ma ora tu paura non ne hai più, diverti di più ma fallo con Gesù. Diverti di più ma fallo con Gesù. Diverti di più ma fallo con Gesù. Diverti di più ma fallo con Gesù. Gesù, sorridi di più, ti abbassi la TV e guardi lassù. Il muso lungo avrà una marcia in più, perché con Gesù tutto c'è di più. Diverti di più, ma fallo con Gesù. Diverti di più, ma fallo con Gesù. Diverti di più, ma fallo con Gesù. Diverti di più, ma fallo con Gesù. Posso fare una domanda? Prego, prego. Sul moscio. Ma fallo in che senso? Fallo con Gesù. Ma fallo aggettivo, cioè sostantivo, verbo, no, è assolutamente lo sai che cosa succedeva nella politica, nelle canzoni anche a Michele è venuto il dubbio, ma in che senso fallo con Gesù? Esatto, ma anche quello, cioè tu lo fai con Gesù e ti diverti. Soprattutto sono bambini questi che cantano. Ma torniamo vedi, tutto torna. No, cioè, sempre lì, torniamo sempre tutto allo torna, tutto cioè, torna. Ragazzi, volevo solo dirvi che con Gesù non sei più moscio, perché è la pubblicità del Viagra. Le parole sono tre: Dio ti ama. Olè. Con Gesù, ma sono quattro. Dio ti ama, lì sono quattro. E perciò la droga non c'è più. La droga non c'è più. Cioè, sono talmente trash che sembrano delle prese per il culo. Il problema è che, ripeto, sono molto più allusive della sigla The Pollon. O di Sembra Talco, ma non è. Ma no, ma in realtà siamo noi che siamo. Siamo dei peccatori. Malementi. Siamo dei peccatori, ovviamente. No, pensiamo a me. Canterebbe Raiss. Esatto. No, devo dire che. Allora, questa canzone è anche simpatica. Però fa veramente schifo, cioè nel senso non c'è neanche, almeno qui là parliamo di Gesù, cioè nel senso, vabbè, lì era facile, no? Nel senso che, ma dopo ne viene una peggio dopo. Cioè, praticamente mi stai dicendo che l'ossigeno macella i fantasmi è meglio di questa? Assolutamente. Accidenti, chi se lo sarebbe mai creduto? No, assolutamente, siamo su un altro pianeta noi, cioè lì. Prego. Volevo solo dire che finora tutte le attività, le imprese musicali legate al contesto ancora non hanno battuto il titolo di un celebre libro di catechismo che si intitola Apri la tua bocca, la voglio riempire. No, aspetta, scusa, stavo a leggere una cosa e ho soltanto capito bocca e riempire. Ok, fondamentali. No, esiste, o perlomeno esisteva, un libro di catechismo per i ragazzi, il cui titolo era Apri la tua bocca, la voglio riempire. E in copertina c'era Gesù. c'è ancora in vendita su Libreria Universitaria, vi sto agevolando il link. Se volete anche voi, la bocca è riempita. No, edizioni io non ho parole, guarda. sono sconvolto da questa cosa che avete raccontato, ragazzi. È ma un questo po'... lo sai perché? Perché nella chiesa non c'è la malizia, quindi quando ti dicono te lo metto nell'ano, in realtà stanno pensando alla supposta, non c'hanno capito che, cioè, secondo me che pensiamo a male, perché loro, cioè, nella chiesa io non c'è mai malizia. Sentito nessuno di loro dire te lo metto nell'ano, devo dire la verità, cioè, quindi non esageriamo. È un esempio insomma. Esatto, quindi tu ci vedi la malizia, ma loro loro parlano in questo modo perché non c'è malizia, non c'è mai un doppio senso, è quindi sempre fallo quello. Con Gesù non c'è un doppio senso, è proprio scopatelo. Esatto. Okay. Però cioè, voglio dire. Scopo sarei scopato, ricordatevi sempre. Mamma mia, un po' come è meglio un culo caldo in panza, una panza calda in culo. Sì, bene. No, meglio, è meglio un culo santo in panza, no, o poi, una panza santa, no, in culo. Questo, cioè, ricordiamo che è quell'enigma che ha tenuto in... No, è diverso però. Sì, però in generale comunque il meccanismo dell'enigma ha tenuto bloccato il cervello di Simone Gusella per tanto tempo. Ma lo dire tuttora bloccato, per quanto ne possiamo sapere noi. Lì poi ci è arrivato. Voilà. Meglio una panza santa in culo o un culo santo in panza? Che bella domanda, cioè, oddio, però dipende, sai, perché trippa qua, cioè. No, lì caschi male comunque, esatto, qui come metti male, perché però se vuoi, vabbè, comunque non se è... vuoi no, se vuoi io inaugurerei una nuova rubrica che mi sono inventato, no, adesso te la sei inventata, no, non sono inventata da oggi, che qui dobbiamo fare il jingle, mi basta leggere il titolo, che praticamente si chiama, cioè, è sempre la stessa rubrica, poi è sempre la stessa, cioè, rubrica praticamente, leggiamo e travisiamo i titoli, cioè questi sono tutti quanti a tema ecclesiastico, per esempio, appunto, cioè, sono quelli, commentiamo titoli senza entrare nella notizia. La Repubblica ci dice, ci dà questo titolo: Clerus App, arriva l'applicazione che aiuta i preti nelle omelie. Che ne pensate? Pensavo fosse Tinder per i preti. Non so, non lo so. Che ne pensate? Cioè, come potrebbe... Tinder per i preti, ma è Grindr. Questa pizza non l'ha capita. No, non l'ho capita. Vabbè. Però vabbè. Spieghiamo dopo. Tu che ne pensi di questo Clerus App? Come potrebbe funzionare Clerus App? Non lo so, però ho visto sempre sul video quello di Mark De Hammer che c'è l'intelligenza artificiale per parlare con Gesù. Esatto, non è questo. Che forse è la stessa. Io? Chat GPD che praticamente, no, però è vero, però puoi fare solo un po' che domande al giorno, pagare. Strano, sì, poi ti esiste Dio perché succede un casino, io lo dovevo, penso che vabbè, non credo che chiedere diritti, no, secondo me è preparata perché lo sanno che è la prima cosa che uno scrive una cosa del genere. Esatto, e ti bruci una domanda perché ce ne pure poche. Invece c'è questa. Allora, adesso mi dovete dire, vi dico la mia, e poi a testa mi dovete dire qual è la prima domanda che fareste all'intelligenza artificiale per parlare con Gesù. Io gli farei la domanda: ma Giuseppe è veramente cornuto? Aspetta, che me le sto scrivendo, che ora la trovo, gliele faccio tutte. Ok, poi tu guardi, che domanda gli faresti? Ma chi te l'ha fatto fare? A chi? Cioè, a Gesù. A Dio, ma chi te l'ha fatto fare? Ah, tra l'altro adesso vi racconto una cosa pure a tema videoludico, che è importante. Tu Sbano, invece, che cosa gli chiederesti all'intelligenza artificiale per parlare con Gesù? Se mi duplica il chilo di pane perché non ho fatto la spesa. Ho fatto duplica al conto in banca. Il pane, ok, esatto. Non il pene. Io invece ce l'ho, è tutta la vita che a Dio voglio fare una domanda. Dai. Ma se tu sei Dio, a cosa ti serve la mia astronave? Ah, grande, che citazione cinematografica di altissimo livello, poi forse il più brutto merda salvato da una frase. Il più brutto film che verrà ricordato solo per quella frase lì, insomma. No, ma soprattutto per la faccia di Shatner che lo guarda con l'aria e dice: ma che cazzo ho chiesto? Cioè, è normale. E McCoy gli dice: non si chiede la carta d'identità a Dio. Ma io gli ho chiesto: Dio, perché no? È logico. Vabbè, terribile. Vabbè, sempre dalla rubrica io andrei avanti perché c'è quest'altra cosa, sempre da Repubblica che dà queste belle notizie. Il Papa ammette abusi sulle suore da parte dei preti. giuro, è vera. Ma anche viceversa. Aspetta, impegno, pure secondo me. Aspetta, impegno a fare di più. Quindi cioè, abusate cioè, più, ancora di più, abusa. Questi titoli travisati, capito? Perché devono sbrigare a scrivere le cose e scrivono delle cose. C'è lo spazio stretto, capito? C'hanno pochi caratteri. Sono pochi caratteri, è meglio che la gente travisi. C'è pure quest'altra cosa. Omelie, sempre dalla Repubblica, stranamente. Omelie lunghe e noiose. In un libro, non sapremo mai quale, l'appello. Basta inutili torture ai fedeli. Citate fatti di cronaca, i testi di Gino Paoli e Hemingway. Io non lo so. Su Hemingway ho dei dubbi. Però. Ma anche su Gino Paoli. Però comunque questo è un prompt eccellente per ChatGPT. Se, secondo me ci viene fuori una cosa fighissima. Però non so, cioè, secondo te ci avrebbe senso fare delle cose, citare. Non lo so, però adesso Walter Sbano ci legge con un perfetto accento british la frase che ha messo Luca S. Mi schiarisco la gola. It's like a penis. It's fine to have one. It's fine to be proud of it. But please don't whip it out in public and start waving it around. And please don't try to show it down my throats. Tutto sommato. Te lo ricordi quando a Biggio gli facevamo leggere l'introduzione di ideologia videoludica? C'erano gli ictus completi. Comunque sta uscendo o è uscito un videogame The Inquisitor. The Inquisitor. Ah, fighissimo. The Inquisitor, che no, allora fighissimo, no, il gioco è veramente una merda, cioè, è una merda. Vabbè, però... no, non è una merda, è uscito con 20 anni di ritardo. Esatto, cioè... è bravo, esatto, cioè tecnicamente è roba di 20 anni fa, però è figo perché praticamente parte dal presupposto che Gesù a un certo punto si ribella. Che cazzo? Si ribella al padre e praticamente non si sacrifica, cioè dicevo che te se in cula. No, proprio, no, cioè. Dopo che l'hanno inchiodato, che si spacca la croce e ammazza tutti. E ammazza tutti, esatto. Cioè, nel senso, ma perché? E quindi praticamente da lì in poi la storia cambia. Eh sì. Praticamente la pietà è un peccato, la misericordia è un peccato, e quindi bisogna picchiare i cattivi. Esatto, esatto. E i vampiri. Perché i vampiri. I vampiri c'entrano un cazzo, però ci mettiamo dentro due vampiri. Tanto ChatGPT ha generato un'omelia citando fatti di cronaca Gino Paoli e Hemingway, messa nella chat. Così. Ma leggila, se non è lunghissima, leggila. No, è tipo tre ore. No, allora no. Allora io direi di andare alla notizia successiva, che trovo molto interessante. Sì, dai, che poi parto col prossimo questa brano. Questa invece ci arriva da La Repubblica, stranamente. No, scusate, mi consentite perlomeno a questo punto, oltre alla citazione, di farla anche, come dire, nostra in maniera semantica, perché la citazione di Luca poi era: la religione è come il pene. Va bene averne uno, va bene esserne orgogliosi, ma per favore non tirarlo fuori in pubblico e non iniziare a sventolarlo in giro, e per favore non provare a ficcarmelo in gola. Esatto. In effetti non ci avevo pensato alla cosa di tradurla, perché giustamente siamo tutti quanti anglofoni ormai. Comunque, notizia sempre dalla Repubblica: Germania, l'arcivescovo di Monaco apre all'abolizione del celibato nella chiesa. Alcuni preti starebbero meglio se fossero sposati. Bisognerebbe superare quel piccolo problema che non si possono sposare minorenni, però insomma, ci stiamo lavorando insomma. Poi c'è l'ultima notizia, ma questa non è una vera notizia, non riguarda proprio la parte ecclesiastica, di Striscio, c'entra ed è molto divertente. Entra in chiesa ubriaco e si finge prete per confessare i fedeli a pagamento. Questa è giusto. Allora io sto per lanciare la canzone, però quello che voglio dire è che l'altro giorno, o l'altro ieri, non ricordo, su Direct Runtime, qualcuno ha condiviso un'immagine prodotta con l'intelligenza artificiale. Il prompt era: Madre Teresa combatte la povertà. L'ho messa io sulla chat di Popcorn. Ed è una delle cose più belle che io abbia mai visto. Sarebbe figo ritrovarla, perché c'è Padre Teresa che praticamente fa le mosse dei karate ai bambini. Tu immagini che immagine distorta che si producono con due parole e l'intelligenza artificiale. Veramente una cosa triste. Questa cosa non l'avrebbe mai condivisa, ovviamente, uno dei personaggi più amati e più buoni che siano mai nati nel territorio italiano. Cioè Padre Pio? Esatto. Che sarebbe? Okay. Sarebbe Padre Pio. Padre Pio. Signore, scenda su di voi, se vuoi presente e a te. Ma in modo speciale una benedizione a Vado per i poveri inverti. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito di Dio. Se lo date Gesù e Maria. faccio vedere tecnica. Bella qualità proprio. Ma stai fissando? Stiamo andando sul Gargano, a San Giovanni Rotondo, a trovare Padre Pio, che ci porta fino a Dio. A trovare Padre Pio, che ci porta fino a Dio. Ora noi napoletani ci venimmo sempre qua, a trovare Padre Pio, che tanta grazia ci fa. A trovare Padre Pio, che tanta grazia ci fa. Canta cazzo ci fa, che dice? Che tanta la grazia ci fa. Ok, okay. Come buono Padre Pio, che tanta la grazia ci fa. Del Gargano riscalda tutti i cuori che vengono a pregare. Riscalda tutti i cuori che vengono a pregare. Padre buono, proteggici dal male, insegnaci a pregare. Padre Dio, Padre buono, proteggici dal male, insegnaci ad amare. Allora, ricordiamo una cosa importante, che quest'uomo era affetto da una versione acuta, cronica della psoriasi, che lo rendeva irascibile e menava bestemmiando le persone. No, ma il diavolo bestemmiava. Padre mio. Senza contare che si provocava le stigmate con l'acido. Cioè, di quella, la psoriasi era il meno del personaggio, Sì, sì, no, non lo so se faceva le cose con l'acido, però cioè, sicuramente se faceva l'acido direttamente, sì, questo non lo sapevo. Sicuramente mai, non erano stigmati. E comunque, al di là di questa visione iper, diciamo, pubblicizzata, insomma, del Padre Pio come l'uomo più buono del mondo, in realtà cronache narrano, insomma, di una persona spregevole, e che l'unica cosa per cui lo amiamo veramente è perché assomiglia a Obi-Wan, insomma, tutto sommato. Cioè, l'unico motivo per cui amiamo Obi-Wan, magari, perché assomiglia a Padre Pio, non lo sapremo mai. Tra l'altro, Francesco l'altro giorno ha prodotto altre 4 immagini, sempre con l'intelligenza artificiale. Padre Pio combatte il lato oscuro della forza, una cosa del genere. Ah no, combatte i Sith. E in effetti, cioè, Padre Pio con la spada laser in mano è veramente Obi-Wan. Cioè. Ma perché avevi dei dubbi? Tu hai mai visto Padre Pio e Obi-Wan nella stessa stanza? No, ci sarà un motivo. No, comunque questo era Gigione, non mi ricordo. Gigione fa roba da mangiare. Gigione, orto e cucina, che si diletta anche nel cantare, insomma. Gigione morto in croce, in questo caso sarebbe. Morto in cucina. Sì, quell'altro, morto in cucina è l'altro. E vabbè, vi è piaciuta la canzone su Padre Pio? Sono andati via tutti. Siete morti? Ma che sono caduti? Non sono caduto io. Padre Pio, Padre Pio, sai che, perché questo? È Padre Pio. Cioè, abbiamo rotto il cazzo alla persona sbagliata. Allora, parla un attimo. Allora, stavo dicendo che abbiamo rotto il cazzo alla persona sbagliata, come diceva il buon Rick Grimes in The Walking Dead, e quindi niente, si è vendicato. Lui si è vendicato, abbiamo detto che non è un vero santo, abbiamo preso in giro e ci ha fatto cadere, ci ha distrutto internet, che è una cosa un po' troppo, insomma, diciamo, brutta, brutale. Insomma, brutale. Sì, è troppo eccessiva, ecco, direi eccessiva rispetto a una cosa brutale. Sì, magari bastava semplicemente un piccolo down, non distruggere tutto quanto internet, ma noi siamo contenti lo stesso. Quindi stiamo aspettando di ritornare online. Ah, eccoci finalmente. Sì, sì, eccoci. No, ma il problema è questa applicazione qua che me lo fa. Jitsi? Sì, no, questo qui, come si chiama? Sì, questo qua. Perché praticamente io l'ho notato, l'ho usato solo 3 volte e cade la linea sempre solo con questo. Quindi ci deve essere. Che cadi solo tu, noi abbiamo continuato. Lo so. No, è strano. Vabbè, comunque, insomma, poi. Vabbè, quindi dove eravamo rimasti? No, eravamo rimasti a Padre Pio e stavamo dicendo cose senza che voi le sapevate. Poi vi abbiamo fatto una domanda e ci siamo accorti che non c'eravate. Quindi. Peccato, è stato il momento più bello di tutta la trasmissione. Infatti, la domanda, che domanda è? Era, che cazzo se lo ricorda? Che sul Padre Pio che faceva jiu-jitsu, non lo so, cioè, stavamo a parlare di Padre Pio che combatte i Sith, sì, esatto, che esatto, quella bellissima immagine di Francesco, e in effetti famoso Pio Kenobi, esatto, praticamente ci domandavamo se nessuno di voi ha mai visto Padre Pio e Obi-Wan Kenobi nella stessa stanza, insomma, quindi per forza di cose secondo me Padre Pio in realtà era Obi-Wan Kenobi e viceversa, insomma, perché poi pure Obi-Wan Kenobi era un po' da vecchio, un po' sclerotico, insomma, C'aveva le sue ragioni, insomma. Sicuramente meglio di quelle di Padre Pio. Esatto. C'erano più ragioni di Padre Pio, sì. Certo, voglio. Sicuramente. Tra l'altro farsi le stimate con la spada laser è un attimo, cioè. Esatto, poi voglio dire, insomma. Sì, che per quanto possa essere doloroso, almeno dura un secondo, una frase, sì, cauterizza subito. Esatto, bravo, esatto. Certo, poi non muovi più la mano, però ma sono Jedi. Esatto, loro sono Jedi. Non hanno bisogno. So Jedi. Jedi. Dicono qualcosa in chat, ragazzi, perché io... Allora, in realtà, prima Luca ci consigliava di leggere un tomo su Madre Teresa di Calcutta, il cui titolo è già meraviglioso, che è La posizione della missionaria, teoria e pratica di Madre Teresa, ma non credo fosse un titolo, cioè, ovviamente è volutamente a doppio senso, ma credo che il libro racconti poi le mostruosità, perché sfatiamo il mito della donna, cioè del personaggio positivo. Madre Teresa era una che proprio, come dire, sguazzava nello stato della povertà in cui vertevano le persone che lei andava in qualche modo, tra virgolette, a salvare, cioè lei era proprio cattiva, cioè voleva che quelle persone stessero in quelle condizioni di indigenza. Un personaggio assolutamente controverso, va un attimino riscritto in una chiave un po' più verosimile e molto meno edulcorata la figura di Madre Teresa. Ma l'ha fatto Sorrentino in una puntata di The Young Pope, dove c'è un personaggio evidentemente lei. Quindi. Esatto. Personaggio di un cinismo inarrivabile, Madre Teresa. Guarda, io l'unica cosa che so veramente è che una banda di albanesi sta venendo sotto casa tua. Questo lo so per sicuro. E poi dopo tutto il resto. Perché stanno attraversando lo stretto di col gommone. No, sto facendo camminando sulle acque urlando vendicheremo il nostro simbolo nazionale, perché ricordiamo che Madre Teresa era comunque albanese, insomma. Vuoi sapere cosa che in realtà allora spiega tante cose, quindi perché noi dobbiamo farci vedere da tutti. E qui abbiamo domani sicuramente questo, no, siamo subito podcast immediato di Fratelli d'Italia. Esatto. Salvini, prendi. Tra un po' arriviamo a Casa Pound direttamente. Sì, Fratellini Cast diventeremo. Fratellini Cast. Fratellini d'Italia Cast. Vabbè, comunque. Ma sapete che in realtà gli albanesi sono molto orgogliosi del fatto, più che di Madre Teresa, di John Belushi, che è la famiglia Belushi d'albanese. Io sarei più, cioè, sarei d'accordo anche con io, loro, anche io, sì, assolutamente. Però ragazzi, allora io adesso non vorrei far scoppiare una sorta di, come dire, di diatriba geografica, però Madre Teresa di Calcutta era di Skopje, quindi era macedone, non era esattamente vabbè. Però lei era di Skopje ma era albanese. Vabbè, ho capito, allora si sarebbe fatta chiamare Madre Teresa de Tirana, invece no, ecco. No, vabbè, perché stava a Calcutta, mica stava a Tirana. Calcutta sta in Macedonia. Comunque, no, per dire, però la vabbè, comunque è un personaggio che a noi non piace, diciamo la verità, insomma, in generale. E io mi sono sempre domandato, quando eravamo ragazzini, tu ti insegnavano sta cosa, è Padre Pio, Madre Teresa di Calcutta, tutte queste persone così positive, che poi in realtà è incredibile, perché alla fine scopri che erano dei mostri, insomma. Vabbè, è una cosa che si può dire pure di Gandhi, che insomma, proprio no. Proprio stabile Gandhi in un'ira. No, Gandhi c'ha, diciamo. Tu lo sai perché Indira Gandhi stava sempre incazzata? Che era Indira? No, perché c'aveva la figa d'India. Questa era una battuta che faceva sempre mio padre, ne andava orgoglioso. Allora, metterà lui, scommetto. Adesso io voglio una vostra opinione, una recensione su questa battuta. È terribile. No. Come si chiamava tuo padre, Berlusconi? Silvio Pizzi. Beh, guarda, lui lo pensava sicuramente. Silvio Pizzi, ok. Vabbè, Maria. Dai ragazzi, un po' di techno adesso. Dai. Yeah. Pace. No, ho sbagliato, scusate. Che poi tutto sommato questa è pure figa, eh. Questa è Molella, regà. Madonnella. Eccola, Dai, è figa, oh. Sulle mani, ragazzi. Alzate le mani, alzategli le mani. Alzategli le mani addosso. Diverti di più, fallo con Gesù. Riconosco il beat, questo è Cristo Dag. Questa è una cover, ragazzi, quindi non è una cover, è un remix, è un techno remix di Ave Maria. Ci sta, insomma, tutto sommato ci sta anche. E mi sono dimenticato di dire all'inizio puntata un disclaimer importante. Io spero che nessuno si offenda per una puntata come questa, avrebbe dovuto dirlo prima sicuramente. Però insomma sappiate che noi quello che facciamo lo facciamo sempre con il nostro spirito santo, con le nostre idee, ma soprattutto sempre con quel minimo di rispetto anche per chi sicuramente non apprezza quello che facciamo, soltanto per chi è credulente, c'è la credulenza. Senti. Vabbè, dai. Va bene, ragazzi. Niente, questa è una pagina cinematografica inquietante. Sto per mettere un contributo sulla nostra chat. Vai. Vedete che stanno girando il remake del Corvo? Ah, sì. Con Skarsgård giovane. Un di Skarsgård. Ok, io vi posto la prima immagine dal set che è trapelata, in cui c'è appunto Skarsgård vestito da Rick Draven e... Di soffermarvi sul tatuaggio in petto. Faccio vedere, c'è una svastica? È un occhio. Non è un occhio qualunque, insomma, è l'occhio col compasso, cioè, è quello. Dove lo sta il compasso? Scusa. Dai, su, vabbè, è stilizzato, ma se vedi ci sono ci sono proprio le... Lo richiama, diciamo, il simbolo massonico, però manca l'elemento... C'è anche una faccia con un capezzolo al posto dell'occhio. Ho capito che anche quello lo richiama a sua volta, cioè l'origine sembra proprio quella, poi vai a capire, magari è... Comunque la faccia con il capezzolo sull'occhio è peggio di tutte, insomma. Ragazzi, dice, ha ragione quando Mr. Zero dice è Young Signorino, per me ha vinto tutto. Addio, sì, vero, giusto. Comunque posso dire una roba. Young Signorino, ragazzi, è sparito poi. Vorrei vedere. Di provare di doversi esibire di persona davanti a non so quanta gente, vi ricordate che gli successe, no? No, sì, non mi ricordo. Lui praticamente fece successo con questa musica de merda autoprodotta sui social, c'era un sacco di follower. A un certo punto qualcuno ha deciso che valeva la pena investire su di lui, gli fece fare tipo un evento, un concerto in piazza a Roma davanti a 100.000 persone. Questo si cagò sotto e non uscì dalla stanza. Vabbè, dagli torto. Beh, ma io anche non sarei uscito dalla stanza, devo dire la verità. Io non ci sarei neanche entrato. Se non doveva uscire nemmeno dalla niente. Io sono gli amici signori. Se dobbiamo essere cattivi, non dovevo uscire dal coma. Cioè. Perché posso esprimere un'opinione impopolare? No, ti piace. Ma pure il primo film del Corvo, non è che. Vabbè. Allora, io non ho mai avuto appeal, devo dire la verità. Non ho mai. Proprio, scusate, ragazzi, vi chiedo scusa. Ammetto che devo chiedere scusa. Tanto Ave Maria qua dura tutta la notte. Smorto. Vabbè, raga, quel film è diventato il film che è diventato per la tragedia che ci ha avuto attorno. Sì, perché alla fine, se no, sarebbe stato un film di cassetta. Nessuno ne avrebbe parlato in maniera particolare. Te dirò di più, l'hanno fatta apposta. Ma No, perché in realtà, cioè, il fumetto da cui è stato preso è un'opera unica di un tizio che, vabbè, poi ha scritto James O'Barr, che poverino veniva da un trauma abbastanza importante che ha elaborato in quella maniera. Tanto il fumetto è bello, decisamente, ma allora, c'ha un appeal diverso. La storia è molto bella, è una miniserie, sono tre volumetti americani. Sì. Ce l'ho in volume qui dietro, credo. Guarda, come dire, è una bella sceneggiatura, una bella storia, un bel racconto, ma è disegnato che peggio solo con Agai, ecco. Vabbè, ma perché l'ha voluto fare tutto lui. Chi ne comprese, quindi. Vabbè. Chi ne comprese. però devo dire, è un po' i film di Snyder ante litteram, perché alla fine il film è uno a uno in certe scene quello che vedi nel fumetto. Hanno evitato di cambiarlo catastroficamente, anche perché poi alla fine era anche un film, diciamo, era un indipendente con un budget ridicolo, sì, no, ma questa è come la storia del film delle Tartarughe Ninja, che i bambini andavano a vederlo aspettandosi le Tartarughe Ninja al cartone animato e si trovarono quelle del fumetto, che erano una cosa un po' diversa. Anche quello era un film indie fatto con due soldi. Parliamo dell'originale, vabbè. Sì. Anni 90, insomma. A me non dispiacque, l'età era quella, insomma. Vabbè. No, ma ti dice, cioè, il problema è che quel prodotto uscì su un mercato dove tutti pensavano che il prodotto fosse un altro. A proposito di cose pop, a casa da mia madre ancora la videocassetta del secondo film, Tartarughe Ninja 2, Il segreto di Uz. Tutta verde, fluorescente, pure non solo la custodia, ma anche la videocassetta vera e propria. Fallo in streaming, il verde fosforescente. Penso se quelli la guardi abbastanza, ad un certo punto diventi anche tu verde fosforescente. Se ti metti proprio vicino. Splinter. Esatto. Se la tocchi. Brucia la retina come minimo. Va bene, ragazzi. Si è fatta una certa, ci abbiamo altri pezzi. Non lo so, dovremmo chiedere al Pizzi, che però sta un attimo facendo cose, quindi non ci può rispondere. Sta in bagno. Ancora a giocare a Candy Crush di nuovo? No, ha finito, andato a mendicare le vite da Michela. Eh? Tutto a posto, tranquillo. Oh, cazzo! Cazzo, no, era andato a bere. È andato a bere, ce lo siete. E quindi che mi dovete chiedere? No, se ci sono altri pezzi. Sì, ce n'è un altro, però è Albano e Romina Power. Sì, potremmo risparmiare. Direi di sì, insomma. Perché dare dei soldi ad Albano e Romina? Che lo diamo, però insomma, vabbè, tu dici perché dare importanza. Esatto. Albano, che si era fatto fare tipo la chiesa privata nella tenuta di. Vabbè, quello l'ha fatto pure Berlusconi. No, Berlusconi c'ha proprio il mausoleo, ragazzi. Il mausoleo, hai ragione. Vabbè, io direi che ci siamo, insomma. Io dico al nostro pubblico, sia chi ci ascolta in diretta che chi ci ascolterà in differita in podcast, anche se secondo me sta puntata credo che sparirà così magicamente nei meandri. L'algoritmo ci punirà. Esatto, insomma, se volete altre puntate tematiche fatecelo sapere, noi fra un mese, due mesi. Ecco, io vorrei ricordarvi che Pizzi mi ha chiesto di prepararmi su Galaxy Express 999, che io porterò come argomento a piacere. Ah, è vero, hai ragione. Vabbè, ma la prossima puntata parliamo di Galaxy Express. Esatto, no, beh, la prossima puntata è una puntata normale, quindi parleremo anche di Galaxy Express, poi torna anche Mercedes, insomma, ci sono tanti tesori. Ormai si è allungata la lista delle letterine de Mercedes e quindi via dicendo, insomma. Va bene. Allora, intanto, Walter, tu domani sei live un'altra volta alle 20, giusto? Come sempre, tranne quando non ci sono. Insomma. Esatto, quindi domani sera, ragazzi, domani l'unica live della giornata è alle 20 con le orazioni della sera. E poi durante tutto l'arco della giornata, il resto della programmazione solida di Runtime Radio. E venerdì non ci siamo perché non c'è Runtime by Night. E non ci sono neanche io ancora, perché mi prendo un'ulteriore settimana, insomma, per riprendermi, insomma, da questo trauma psicofisico-motorio. E poi tornerò piano piano. Sto preparando una puntata del Grande Reset che forse ci riesco. La pubblico così in differita, insomma, la manderò poi alle 7 di mattina, però non sarò live, insomma. Detto questo, io ringrazio e saluto Marco Gualdi. Ciao, è stato bello anche questa sera parlare bene della Chiesa. Bene, sì, soprattutto con tu poi sei il più esplicito di tutti, tanto sommato dovresti vergognarti. Tu hai detto senza pietà, Io ti ho preso la lettera. Non so se ho usato questo termine. Sì, sì. Colpite duro. Colpite duro, va bene. E tu hai colpito duro. Ringrazio e saluto Carmine Puccio Console. Ciao. E ringrazio e saluto Walter Sbano. Statevi bene e buon Dio a tutti. Ci sentiamo la prossima settimana con Pop Corner e ricordatevi sempre Ave Maria. We'll be right back.